Europa 24. E Maglie colse dunque al ministro della difesa della Serbia, tanto più che Vucic, il suo capo, fino a pochi minuti fa il premier, come sapete, è impegnato in una lunga trattativa che punta a integrare proprio la Serbia nell'Unione Europea. Ma tant'è. Un buongiorno a tutti. Dunque, noi partiamo invece dalla notizia, o meglio dagli echi della vittoria del Front National dunque in Francia. Commenti entusiastici da parte degli alleati naturali, in particolare da Wilders, quindi le congratulazioni del leader del PVV, il partito islamofobo dell'estrema destra olandese, grande soddisfazione anche da parte di Mario Borghezio, l'europarlamentare della Lega Nord, che dice ormai più dunque un fronte nazionale anche per l'Italia. Insomma, reazioni naturalmente soddisfatte nella destra europea per i risultati francesi. Per quanto riguarda invece l'agenda, i ministri delle finanze UE si riuniscono per fare il punto sulla situazione economica, al centro anche il tema delle tasse, o meglio degli accordi in particolare che gli stati stringono con le multinazionali per scambiare, diciamo, un reciproco vantaggio e in definitiva per creare delle situazioni, appunto, in cui ogni stato fa una storia a sé. Il servizio. I ministri delle finanze dell'Unione Europea torneranno a riunirsi questo pomeriggio e domani mattina per fare il punto della situazione economica. Se oggi la discussione riguarderà il lavoro della sorveglianza bancaria a livello europeo, domani il dibattito sarà incentrato su come combattere il terrorismo finanziario. Su richiesta in particolare francese, il tema è diventato d'attualità dopo gli attentati terroristici di Parigi della metà di novembre. C'è l'evidente sensazione che il terrorismo islamico possa contare su canali finanziari e bancari privilegiati. L'altro tema della giornata di domani è la lotta all'evasione fiscale. I 28 dovrebbero dare il benestare definitivo a una direttiva che impone lo scambio di informazioni sugli accordi fiscali che singoli paesi europei concedono a multinazionali europee o di altri paesi. Di recente la Commissione europea ha condannato il Lussemburgo e l'Olanda per avere concesso accordi fiscali a Fiat e a Starbucks in violazione delle regole sugli aiuti di Stato. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E a proposito di elezioni amministrative in Francia, di cui abbiamo parlato in apertura, una nota della Commissione UE che dice: non commenta i risultati di elezioni regionali che peraltro sono solo al primo turno. Così il portavoce dell'esecutivo Marguerite Schina sul successo del fronte nazionale, ribadendo a chi chiedeva se Bruxelles fosse preoccupata, dice: l'istituzione non esprime mai posizioni su scala psicologica. Bene, parliamo invece di COP21. Dopo una settimana dedicata alla registrazione degli impegni per la riduzione delle emissioni, questa settimana si negozia l'accordo finale. Come sta andando lo spiega Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, al microfono di Laura Bettini. Ancora ci sono delle difformità di vedute, bisognerà negoziare, perché alcuni grandi paesi, soprattutto gli Stati Uniti, non vogliono e non si accordano per un accordo giuridicamente vincolante, cioè ancora non vogliono il controllo esterno, non vogliono alcuni elementi internazionali di verifica che possano eventualmente sanzionare i comportamenti. Abbiamo un primo testo, una prima bozza di accordo dove ci sono purtroppo ancora una cinquantina di punti da risolvere e che saranno oggetto di negoziato questa settimana. In una intervista che è stata pubblicata oggi, il commissario Cagnetti diceva che ha avuto l'impressione che in pochi stiano gettando il cuore oltre l'ostacolo. Anche lei? Ho la sensazione che siano in tanti a giocare in difesa. Dobbiamo cambiare modulo di gioco perché questa settimana e questi primi giorni della settimana saranno decisivi. C'è bisogno di coraggio. Tutti i paesi grandi inquinatori devono percepire le difficoltà che hanno i paesi poveri e ovviamente essere disponibili a cofinanziare interventi anche in quei paesi, se no non potremmo avere uno sviluppo armonico e equilibrato sul piano mondiale. E noi da mercoledì, proprio con Laura Bettini, torneremo a Parigi a raccontarvi in diretta le giornate decisive di questa trattativa, in attesa naturalmente dell'esito attesa per la fine della settimana. E con questo è tutto per le notizie europee, un saluto, la linea naturalmente va allo sport. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.